giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. L'esigenza di un incremento dell'attività di intelligence da parte degli apparati preposti a questo tipo di funzione, che già funzionano ma chiaramente verranno incrementati. Quindi una maggiore cooperazione internazionale e esigenza di creare una struttura di coordinamento delle procure che si occupano dell'attività appunto di repressione del terrorismo. Parla così al microfono di Cristina Battocletti Stefano D'Ambrosio, il sostituto procuratore della Repubblica di Milano che indaga da anni sul terrorismo islamico. Coordinamento, intelligence, capacità di comprendere il fenomeno, perché la guerra contro i gruppi che operano in Italia, soprattutto in Lombardia, è di tipo asimmetrico, contro un nemico, molto spesso invisibile. Una cellula è un'unità di combattimento. Un insieme di cellule costituisce una rete indipendente ma collegata. Cellule compartimentate tra loro, che dipendono da uno sceicco, da un emiro. Piccole unità autonome che perseguono anche obiettivi diversi, ma che alla fine restano uniti, dalla jihad. I terroristi islamici operanti in Lombardia e in Italia provengono soprattutto dall'area nordafricana, anche se vi è traccia di presenze pakistane. Sono organizzati in cellule, conservano la loro specifica identità nazionale e perseguono obiettivi distinti. Tuttavia, collaborano tra loro con gli altri fratelli all'estero e si specializzano. In Italia nella fabbricazione di documenti falsi, in Germania nel traffico di armi. Non c'è una chiara struttura gerarchica. Si configura dunque una confederazione informale di cellule, ognuna delle quali ha un referente chiamato sceicco. Una presenza rilevante riguarda gli algerini del GIA, gruppo islamico armato, e di Takfit Wal Higra, anatema ed esilio, gli egiziani al-Jihad e al-Gama al-Islamia e i marocchini. Negli ultimi 4 anni in Italia, peraltro numerosi ed importanti si sono rivelati gli integralisti tunisini, oppositori del regime di Ben Ali, ben radicati a Milano, aderenti alla sigla del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Le indagini dei magistrati accertano le attività di copertura dei terroristi islamici. Spesso si inseriscono nel tessuto economico e produttivo, impegnati in attività imprenditoriali, come il gruppo milanese che crea una società di servizi di pulizia a Gallarate, commercianti e persone che gestiscono aziende di import-export, call center. Ma vi sono anche professori, studenti, tecnici specializzati, ancora artigiani, elettricisti, semplici manovali, disoccupati. Intorno al nucleo centrale ruota la rete dei fiancheggiatori. Conducono un'esistenza al di sopra di ogni sospetto nelle periferie delle grandi metropoli come Milano, oppure in provincia dove è più facile mimetizzarsi. Le indagini più interessanti sul piano tecnico giungono da Milano. Dimostrano che procacciamento e circolazione di documenti falsi rappresenta ancora oggi un punto fondamentale per lo svolgimento delle attività terroristiche. Avere la disponibilità di buoni documenti consente ai capi di girare per il mondo con pochi rischi, soprattutto quando devono mantenere contatti con le cellule periferiche fino agli esecutori di possibili attentati. Ma chi sono? Che cosa pensano i militanti dei gruppi del terrorismo islamico? Da un documento ritrovato il 12 luglio 2002 in corso 22 marzo 39 a Milano, in un appartamento affittato da Boyuka Maher nell'ambito dell'indagine Bazar. L'addestramento militare dei musulmani è fondamentale per combattere il sistema di vita umile alla quale i fratelli sono costretti a vivere sottostando alle regole dettate dai governi. L'addestramento è un obbligo per tutti i musulmani che godono di salute e dell'età adulta. Il contributo economico per la causa di Dio è dettato ai musulmani che sono esentati militarmente da compiere il jihad. Essi devono contribuire economicamente alla causa mettendo a disposizione di essa somme di denaro destinate all'acquisto di armi, al mantenimento delle famiglie dei mujahideen, dei caduti in battaglia, dei feriti e degli handicappati. Nel contempo, il contributo alla causa degli esenti al jihad non si limita all'aspetto finanziario, ma essi devono svolgere propaganda a favore del jihad, esaltando la vittoria dei fratelli in battaglia ed informare la comunità dei crimini che vengono commessi dal nemico. C'è dunque un filo che lega molte indagini nazionali a spunti investigativi locali. Seguiamo la traccia. Le indagini partono da lontano e prendono di mira militanti della GIA, Gruppo Islamico Armato, formazione proveniente dall'Algeria. Nel 1996 l'inchiesta milanese Al-Shabka individua una cellula impegnata in un ampio progetto di ricostruzione sul territorio nazionale di una rete di strutture di supporto all'azione dell'organizzazione. Importanti riscontri giungono dalle indagini dei magistrati poi di Napoli, Bologna e Torino. Sono centinaia gli arresti. Poi gli investigatori si concentrano sul gruppo GSPC, gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Il GIT, gruppo islamico tunisino diretto da Seif Allah Ben Hassin, fornisce sostegno diretto a questo gruppo. Gli islamisti tunisini vengono quindi indirizzati verso la rete algerina attraverso l'Italia e la Spagna. Ecco perché la struttura italiana del gruppo islamico tunisino che opera nella zona di Milano risulta poi in stretto collegamento con il gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Le indagini proseguono dal 1995 e si concludono in tre distinte fasi, nel 2001 contro il gruppo salafita che fa capo all'Istituto Culturale Islamico di Milano. A Gallarate viene arrestato Esid Sami Ben Kemais, leader del gruppo. Un'ordinanza di custodia cautelare viene emessa contro Maurufi Tarek, cittadino belga, anello di congiunzione tra le cellule in Inghilterra, Belgio, Spagna, Francia, Germania e Italia. Molte le perquisizioni effettuate a Milano. L'Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner, 50, dove sono di casa i terroristi Remarna Afed e Cerulli Yassine, e la comunità islamica in Italia di Via 40. Altro filone investigativo riguarda il movimento islamico marocchino. La svolta delle indagini giunge poco dopo gli attentati di Casablanca del 16 maggio 2003, 45 morti. Il 18 ottobre 2003 vengono arrestati tre marocchini già ricercati. I reati: costituzione di associazione terroristica, preparazione su commissione di atti terroristici, detenzione ed utilizzo di esplosivo. Intanto la procura distrettuale di Brescia avvia un'indagine sull'ipotesi di attentati contro il Duomo di Cremona, la metropolitana di Milano. I magistrati bresciani arrestano Mohamed Rafik, imam di Firenze, transitato poi da Milano e poi trasferito a Cremona. Appartengono tutti alla corrente integralista islamica Salafia Jadia. Ultimo gruppo, Ansar al-Islam, proveniente dal nord Iraq. La Procura della Repubblica di Milano ottiene la richiesta di assistenza giudiziaria dall'autorità giudiziaria norvegese e alla fine interroga il mullah Krekar. Molti appartenenti a questa cellula ammettono: siamo stati incaricati da lui di farci esplodere. La cellula milanese è composta da soggetti preparati nei campi di addestramento in Afghanistan, supporto logistico della rete attraverso il reperimento di falsi documenti di identità, l'invio di somme di denaro ai fratelli combattenti. Molto è stato compiuto dagli esperti dell'antiterrorismo, ma troppo c'è ancora da realizzare per scompaginare in modo definitivo i gruppi del terrorismo islamico. Ci sono problemi investigativi, ma anche problemi di tipo legislativo, come ricorda il sostituto procuratore di Milano, Stefano D'Ambroso. Le tradizioni giuridiche diverse dei vari paesi incolpevolmente rappresentano un ostacolo alla migliore cooperazione, quindi effettivamente l'obiettivo dell'armonizzazione è uno di quelli da raggiungere per una più efficace repressione. Il comandante del ROS dei Carabinieri, Giampaolo Ganser, sintetizza così le indagini dell'ARMA contro le cellule del terrorismo islamico in Lombardia e in Italia e ammette: il nostro paese si è trovato impreparato ad affrontare il fenomeno. Noi abbiamo dovuto prendere cognizione e quindi confrontarci con questo insorgente fenomeno quantomeno dall'inizio degli anni 90, con delle presenze, delle manifestazioni riconducibili essenzialmente al GIA algerino, ma con delle connotazioni piuttosto diverse, cioè un gruppo, dei gruppi, una rete europea che svolgeva una serie di attività illecite ma funzionali, finalizzate al sostegno delle attività terroristiche vere e proprie sviluppate nel paese d'origine, quindi in Algeria. E ciò nonostante sono sorti i primi problemi di carattere operativo, di carattere tecnico e giuridico, proprio perché la nostra legislazione non era adeguata, non era sufficientemente moderna per affrontare questi problemi. Si trattava comunque di una situazione in cui ancora gli algerini in primis, ma anche gli egiziani di Jamal Islamia, i tunisini, i marocchini, attuavano delle iniziative delittuose in territorio italiano e negli altri paesi europei, ma con una finalità, ripeto, rivolta al paese di origine. Infine ci sono i finanziamenti del terrorismo internazionale che vedono l'Italia, in primis Milano, come snodi essenziali. Ed è questa per gli investigatori la vera sfida del futuro, come sottolinea il giallo-nero l'economista e saggista Loretta Napoleoni nel libro La nuova economia del terrorismo, al microfono di Gigi Donelli. Attività terroristiche, gli attacchi non sono costosi, infatti se vogliamo prendere in considerazione l'attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono e il fallito attacco alla Casa Bianca è costato solamente $500,000, ma questa è l'esecuzione, diciamo, dell'attacco. Per arrivare a quell'attacco ci sono stati 2 anni di lavoro intenso, c'è tutta una rete, un'organizzazione che sostiene questa insurrezione islamica, che seleziona i soggetti che poi porteranno l'attacco, per cui sotto questo punto di vista non è assolutamente vero che il terrorismo è una forma di business, come lo chiamano nei paesi anglosassoni, a poco prezzo. Dal punto di vista economico del finanziamento si è fatto pochissimo, l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite di questa commissione che ha indagato per 3 anni sui finanziamenti di Al-Qaeda è del dicembre del 2003 ed in questo rapporto si lamenta il fatto che le finanze di Al-Qaeda sono praticamente intatte da prima all'11 settembre e addirittura solamente $150 milioni sono stati congelati dall'11 settembre fino ad oggi in tutto il mondo. Questi milioni sono stati congelati subito dopo l'11 settembre, addirittura nel 2003 quasi nulla è stato congelato, quindi questo dimostra il fatto che anche sotto il punto di vista della pista del denaro, della lotta contro questo finanziamento, veramente pochissimo.